All'incicac. La fenditura. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole e il misericordioso. Quando si fenderà il cielo? E obbedirà al suo Signore e quel che deve fare farà. Quando la terra sarà spianata. Rigetterà quello che ha in seno e si svuoterà. E obbedirà al suo Signore e quel che deve fare farà. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. O uomo che aneli al tuo Signore, tu lo incontrerai. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Quanto colui che riceverà il suo libro nella mano destra? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Gli verrà chiesto conto con indulgenza. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. E lietamente ritornerà ai suoi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Quanto a colui che riceverà il suo libro da dietro le spalle, fasawfa yad'u thubura. Invocherà l'annientamento. Wa yasla sa'ira. E brucerà nella fiamma. Innahu kana fi ahlihi masrura. Si rallegrava in mezzo ai suoi. Innahu dhanna an lan yahur. E pensava che mai sarebbe ritornato ad Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Invece sì, in verità il suo Signore lo osservava. Fala uqsimu bish-shafaq. Lo giuro per il crepuscolo. Wal-layli wa ma wasaq. Per la notte e per quello che essa avvolge. Wal-qamari idh-ttasaq. Per la luna quando si fa piena. Latarkabunna tabaqan an tabaq. In vero passerete attraverso fasi successive. Cosa hanno dunque che non credono? E non si prosternano quando si recita loro il Corano. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. I miscredenti invece tacciono di menzogna. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ. Ma Allah ben conosce quel che celano. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Annuncia loro un doloroso castigo. Eccetto che per coloro che credono e compiono il bene, essi avranno ricompensa inesauribile.